Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, il costo del denaro a livello europeo, a livello dell'area euro, è sceso ai minimi dal maggio del 2006 al 2,5%. È il taglio più forte, quello operato oggi, di 75 punti base, quindi lo 0,75%, il taglio più forte, dicevo, da quando esiste la banca centrale europea, e soprattutto è il terzo taglio in due mesi, nel senso che a ottobre era stato tolto alla fine un punto percentuale con due tagli, oggi un altro 75, per cui si è scesi sostanzialmente dal 4,25% di settembre al 2,5% di adesso. Vedremo come si muoverà poi l'Euribor, ossia il tasso di riferimento interbancario, quello su cui le banche applicano poi lo spread per calcolare i mutui, e vedremo poi anche come andranno i mutui bancari. La differenza con gli Stati Uniti a questo punto scende a 1,5% quanto a tassi di interesse. Il 16 dicembre ci sarà la prossima riunione della Federal Reserve, e vedremo, perché le attese sono di un altro taglio di 0,5% che farebbe scendere i tassi dall'attuale 1% allo 0,5. C'è chi inizia però a mostrare qualche perplessità, perché si fa notare da un lato che proprio una politica nel 2001, dopo l'11 settembre, di tassi molto bassi, ottenuti bassi per troppo tempo, ha generato quella facile liquidità, quel denaro facile che ha portato poi gli investitori a prendersi dei rischi, poi alla fine rivelatisi totalmente scriteriati, ha portato anche, secondo alcuni osservatori, a cercare rendimenti alti, e quindi prodotti rischiosi, prodotti strutturati con molta leva finanziaria, perché diciamo il denaro rendeva poco. Il costo del denaro è anche quanto rende il denaro, è la stessa cosa. E quindi c'è chi dice: attenzione, va bene aiutare l'economia, ma ormai si è arrivati al fondo del barile. Se i tassi americani scenderanno allo 0,5 e comunque i nostri sono scesi a un livello già basso, è inutile cercare di far bere il cavallo se il cavallo non vuole bere. Queste sono, diciamo, le obiezioni dei critici. Oggi si è mossa anche la Banca d'Inghilterra. Pensate che in Gran Bretagna il denaro non costava così poco dal 1951, dal 3 al 2%. Insomma, un altro mondo, un mondo di una Gran Bretagna uscita dalla Seconda Guerra Mondiale che aveva il costo del denaro al 2%. È chiaro che questo sarà il tema di apertura. Come hanno reagito i mercati? Ma chi si attendeva una reazione molto forte sicuramente è deluso, perché Parigi perde lo 0,1, Milano perde lo 0,90, l'S&P MIB perde l'1,3, Francoforte guadagna qualcosa, lo 0,4, Londra pure, l'America perde lo 0,3%, insomma poco mossi rispetto all'ampiezza della decisione, va detto decisione da molti osservatori ampiamente scontata. Chi si muove peggio e meglio in borsa in questo momento? Autogrill e il Banco Popolare perdono il 5%, l'Enel il 4,4%, Fondiaria il 3,7,2%, il 3,5 lo perde Unipol, ma anche Unicredito, e anche ST Microelectronics e Geox, il 2,5 del caro di Terna, il 2% quello delle Generali, di Intesa San Paolo e di Luxottica, Fiat meno 1,80, Saipem e Mediaset, 1,5 punti di calo. Chi va bene? Alleanza Assicurazioni guadagna il 5%, Fastweb il 3,5%, L'Espresso il 2,6%, Telecom guadagna il 2,4% e Buzzi Unicem il 2,3%, Finmeccanica più 1,7%, UbiBanca guadagna l'1,2%. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo di tassi di interesse, ma parleremo anche della mossa del piano di salvataggio anticrisi, pacchetto anticrisi francese. Parleremo del fatto che La differenza tra quanto rende un BTP italiano e un Bund tedesco sta aumentando, e non è una bella notizia, perché vuol dire che quello che il nostro paese deve remunerare per farsi sottoscrivere il debito è sempre più alto, cioè diventiamo meno appetibili, meno interessanti rispetto alle obbligazioni tedesche in un periodo in cui si fugge dal rischio e quindi ci costa di più rifinanziare il nostro debito. E poi anche della vicenda Telecom Italia, non tanto per il riassetto quanto per i 9.000 esuberi, 5.000 più 4.000, insomma il 14% dei dipendenti di Telecom Italia, in una giornata in cui AT&T annuncia più di 10.000 esuberi, sono circa 16.000 esuberi se non ricordo male. Le notizie in breve. Allora, al di là dei tassi, e poco prima di parlare dei tassi, che cosa è successo oggi nella giornata economico-finanziaria? Il petrolio ha continuato a scendere, e questa è una buona notizia, diciamola tutta. Meno 1,4%, è ai minimi da 4 anni, 46,1 dollaro per barile. Sui mercati l'Euribor, quindi già un'indicazione c'è, anche se non è arrivata prima del taglio dei tassi, è sceso al 3,67% l'Euribor a 3 mesi, ma come dicevo, ne parleremo più avanti, la differenza tra quanto, diciamo, costa rifinanziare il debito italiano e quanto costa rifinanziare il debito tedesco, ossia quanto rende un'obbligazione, questo poi è un'obbligazione, si chiede un prestito e in cambio lo Stato dà un rendimento, più alto il rendimento meno tra virgolette affidabile è lo Stato. Allora, la differenza si calcola in Europa con il Bund, che è considerato l'obbligazione tedesca quella più affidabile in assoluto, cioè il mercato dà per impossibile un fallimento dello Stato sovrano tedesco. Ebbene, questa differenza, che era ferma da anni, da quando l'Italia è nell'euro, è aumentata ancora, ha toccato 186 punti, cioè l'1,36%. Noi dobbiamo quindi offrire un interesse superiore dell'1,36% per trovare acquirenti. Questo è perché il giudizio sul debito italiano è peggiore rispetto al giudizio sul debito tedesco, ma è anche uno dei motivi per cui il ministro Tremonti, ne parleremo più avanti, è molto restio a aumentare il deficit previsto, mentre altri paesi possono farlo più tranquillamente. Non è l'Europa il vero problema, l'Europa ha già detto che con questa crisi eccezionale si può fare qualche sforamento in più, il problema è il rating, ossia i mercati, perché se poi veniamo colpiti sul rifinanziamento delle obbligazioni sono dolori e sono costi. Basti ricordare, e poi concludo con questo tema, che praticamente ogni 0,25% in più del costo del denaro significa 3 miliardi in più sul nostro debito, per cui adesso avrebbe fatto il calcolo, ma ogni volta che aumenta quanto lo Stato deve offrire per farsi comprare i bot, sono poi soldi che dovremo fornire nel futuro. Però su questo va detto che oggi, poco fa, un'ora fa, il ministro Tremonti, nel corso della registrazione della trasmissione Porta a Porta, ha detto sono convinto che alla fine, a fare la fine della crisi argentina, saranno gli altri. L'Italia ha in sé elementi di grandissima forza, questo è il riferimento anche alle indiscrezioni poi corrette, alle dichiarazioni poi corrette da parte del ministro Sacconi che oggi avete trovato sui giornali. Invece il timore di un fallimento di General Motors e Chrysler colpisce anche l'Asia, perché oggi il titolo Bridgestone a Tokyo ha perso il 9%. Bridgestone è il più grande produttore al mondo di pneumatici e sconta il rischio che se dovessero crollare o fallire General Motors e Chrysler, chiaramente anche tutto l'indotto e tutti i fornitori come Bridgestone ne subirebbero le conseguenze. Restiamo in tema di General Motors e Chrysler, perché i due colossi d'argilla a questo punto stanno valutando l'ipotesi di accettare lo stato di bancarotta preventiva come ultima risorsa per ottenere via libera al salvataggio multimiliardario. Il pacchetto, insomma, vale, loro hanno chiesto 34 miliardi di dollari, General Motors, Ford e Chrysler. Obama vuole dargliene 25 se tutto va bene, ma insomma È un pacchetto multimiliardario che il governo americano sta approntando. Tra l'altro 11 miliardi li vorrebbero subito General Motors e Chrysler, che hanno bisogno rispettivamente di 4 miliardi General Motors e di 7 miliardi Chrysler per arrivare al 2008, non per diciamo così pianificare la ristrutturazione, per sopravvivere fino al 2009. I licenziamenti. Credit Suisse ha tagliato 5.300 posti di lavoro dopo aver accumulato perdite per circa 2 miliardi di dollari nei primi due mesi di questo trimestre e si era beccata già 9 miliardi di euro di svalutazioni dovute a investimenti in prodotti poi rivelatisi tossici, ossia di carta straccia, di carta che non vale più nulla. E ne pagano le conseguenze 5.300 dipendenti. Certo, hanno bloccato anche i bonus ai manager, ma vabbè. AT&T invece ha annunciato il taglio di 12.000 posti di lavoro e quindi anche il colosso telefonico americano è in sofferenza. Il 4% dell'organico e ridurrà anche gli investimenti. Però mentre diciamo, nel mondo ci si inizia a leccare le ferite, e purtroppo temiamo che siano solo le prime ferite che questa crisi finanziaria ha innescato anche sull'economia reale, c'è invece insomma, chi si permette anche di progettare, così, di spendere soldi in maniera, così vogliamo dire, discutibile. La Regione Calabria ha stanziato 6 miliardi di euro per l'esproprio dei terreni su cui realizzare un nuovo aeroporto a Sibari. Altri 28 milioni dovrebbero arrivare dai fondi europei. Dovrebbe diventare Sibari l'hub di collegamento con le destinazioni del Medio Oriente. Vi giuro, non sono ubriaco, sono 6 milioni di euro chiaramente, l'unica inesattezza è questa, ma 6 milioni più 28 fanno chiaramente 34 milioni di euro per creare a Sibari l'hub di collegamento con le destinazioni del Medio Oriente. Ora, la cosa interessante, perché ci sarebbe da ridere, è che favorevoli a questa opera, ricordo che Reggio Calabria ha un aeroporto la Regione Calabria ha un aeroporto a Lamezia Terme, un altro ce l'ha a Crotone, che andrebbe invece, quello sì, rafforzato. Di Sibari non avevamo sentito mai parlare, ma insomma favorevoli sia la maggioranza che l'opposizione. Per cui oltre a Reggio Calabria, Lamezia Terme, Crotone, ci sarebbe anche l'hub di Sibari per il Medio Oriente. La cosa interessante è che invece che rafforzare gli aeroporti che hanno, si preferisce in Calabria crearne uno nuovo, un vecchio vizio di questo paese. Lo dico perché di questi tre aeroporti solo Lamezia Terme è in attivo e ha 300.000 euro di utili con 1,5 milioni di passeggeri in transito. Reggio Calabria ha perso l'anno scorso 4 milioni di euro con un transito di 580.000 passeggeri, mentre Crotone per vivere riceve ogni anno 3 milioni di soldi pubblici, di soldi nostri, e ha addirittura sospeso l'attività perché il 2007 si era chiuso con una perdita. Chiaramente forse sono in perdita perché non sono un hub verso il Medio Oriente. Va bene, andiamo rapidamente verso il tema di apertura, ossia i tassi di interesse della Banca Centrale Europea, che forse è meglio. Nel frattempo a Brindisi la Regione, attraverso la valutazione di impatto ambientale, ha espresso parere negativo sul rigassificatore a Brindisi, quello della British Gas, e quindi aspetteremo ancora per il rigassificatore. E continuano i furti nei cantieri dell'imprenditore che per primo fece scattare le misure anti-racket in Sicilia, Andrea Vecchio, presidente anche dell'ANCI di Catania, è sotto protezione dopo aver fatto arrestare i suoi estorsori. Tra l'altro da lì partì l'iniziativa del presidente degli industriali siciliani della Confindustria Sicilia, Lobello. Sentiamo, perché se lo merita, al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali che cosa ha dichiarato questa mattina l'imprenditore che ha ricevuto l'ennesimo atto di intimidazione, ossia Andrea Vecchio. Sta succedendo quello che in questo territorio, purtroppo in questo meridione d'Italia, dimenticato da tutti, dimenticato dal governo nazionale, dimenticato dalla politica, succede. Lei ha detto: devo decidere se chiudere il cantiere, licenziare i miei dipendenti oppure munire gli operai di armi. Le armi delle quali parlavo io erano l'intransigenza, la determinazione, erano la forza d'animo che tutti quanti abbiamo, anche perché i miei operai, anche i miei operai cominciavano ad essere scoraggiati, hanno cominciato a dire: ma dove siamo? Qua andiamocene. Lei chiede l'intervento delle istituzioni, che cosa devono fare secondo lei? Debbono garantire a me, ma non a me Andrea Vecchio, a me cittadino italiano, che svolga bene e in sicurezza la sua attività, occupandosi della sua attività e non dovendosi occupare di altro. Allora, no, vedo molti messaggi sul quarto aeroporto in Calabria, in una regione in cui due aeroporti su tre non ce la fanno a sopravvivere per fare l'hub verso il Medio Oriente. Guarda, lasciamo veramente stare perché se no mi deprimo. Invece parliamo con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, che oggi però si trova a Bruxelles. Buonasera Beda. Buonasera. Allora, tra l'altro tu sei a Bruxelles non perché non volessi seguire la BCE, ma perché la BCE oggi il taglio l'ha operato da Bruxelles. 75 punti base al 2,5%, il taglio più forte nella storia della Banca Centrale Europea, e così i tassi vanno al livello del maggio 2006. Terzo taglio in due mesi, è un record per la Banca Centrale Europea. Ascoltiamo come ha giustificato e come ha sottolineato anche che sia quanto sia il più grande taglio da sempre il presidente Jean-Claude Trichet. On the basis of its regular economic and monetary analysis, sulla base delle analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di ridurre i tassi di interesse di ulteriori 75 punti base. Un passo che segue i due tagli da 50 punti ciascuno dell'8 ottobre e del 6 novembre. Dal nostro ultimo incontro sono aumentate le prove sull'ulteriore diminuzione della pressione inflazionistica. C'è stato consenso circa la riduzione di 75 punti base. Pensiamo che fosse la misura appropriata, considerando che diminuiranno nel prossimo futuro i rischi alla stabilità dei prezzi. In linea dunque con il nostro mandato, riteniamo appropriata la decisione presa oggi. Per ciò che riguarda il futuro, voglio solo dire che non ci impegniamo mai preventivamente e facciamo sempre ciò che riteniamo necessario per assicurare la stabilità dei prezzi. Senza dubbio, la riduzione di 75 punti base è la maggiore di sempre da noi operata. Voglio anche aggiungere che in meno di due mesi abbiamo abbassato il costo del denaro di 175 punti base, azione che ovviamente non abbiamo mai fatto in precedenza. Allora, questo è il passaggio in cui Jean-Claude Trichet ha ricordato quanto forte, quanto eccezionale sia, Beda Romano, questo taglio. Poi come l'ha giustificato da un lato e ha lasciato presagire ulteriori tagli? Ma io credo che per il momento la Banca Centrale voglia aspettare e vedere come l'economia evolve nei prossimi mesi. La banca ha ridotto i tassi di 175 punti base in due mesi, ha deciso di fare 75 oggi quando una larga maggioranza di economisti e di operatori si aspettava 50 punti base. Ho l'impressione che il messaggio di oggi della Banca Centrale è: siamo in attesa di vedere come va l'economia, siamo pronti però ad agire se necessario, visto che la situazione economica è estremamente incerta e visto che non passano due settimane senza che le grandi organizzazioni internazionali e le grandi banche siano costrette a rivedere al ribasso le loro previsioni di crescita. Credo questo sia la posizione della Banca Centrale, che oggi ha insistito in modo particolare sul fatto che le banche debbano tornare a prestarsi denaro. E mentre nel novembre scorso la BCE aveva insistito con gli istituti di credito, stavolta invece ha messo l'accento sulla Commissione e sul fatto che la Commissione deve agire rapidamente per permettere ai pacchetti di misure decisi dai vari governi europei, in modo che questi pacchetti di misure possano essere introdotti e messi in pratica. Questo quindi il messaggio più politico della BCE. Ecco, restiamo su questo tema, che è poi quello che interessa sia gli imprenditori che i cittadini. Allora, Trichet ha detto: anche se non osserviamo particolari segnali di un prosciugamento nell'offerta di credito, ci aspettiamo che continueranno a calare i prestiti delle banche a imprese e famiglie. Faccio notare che l'ABI in Italia dice che invece i prestiti alle imprese, alle famiglie, gli impieghi bancari, come si chiamano, sono in aumento. Però Beda, c'è un principio, cioè le banche la sera preferiscono consegnare i loro soldi alla Banca Centrale Europea nottetempo, perché hanno comunque hanno rendimenti bassi, ma almeno stanno dentro la Banca Centrale Europea, che prestasse tra di loro. Allora, tu stesso qualche settimana fa in questo programma avevi detto: beh, forse sarebbe il caso che la Banca Centrale Europea iniziasse a abbassare ulteriormente quanto vale depositare i soldi da lei, così le banche saranno meno e meno invogliate a depositare questi soldi nella Banca Centrale Europea e saranno un po' più stimolate a prestarli magari a imprenditori che poi li fanno fruttare o a cittadini che non sono a rischio. Si è capito se questa è poi l'intenzione di Francoforte? Ma la BCE sta riflettendo a varie soluzioni su questo fronte. Prima di tutto dobbiamo notare che il tasso sui depositi, con la riduzione annunciata oggi, scende drasticamente, perché scende al 2% ed è piuttosto basso. Quindi è basso e non si può escludere che le banche a questo punto ci riflettano due volte prima di dare i soldi in prestito alla BCE piuttosto che darli al mercato. Però è evidente che questo è un problema serio e la Banca Centrale sta pensando alle varie opzioni. E una delle opzioni è proprio quella di ridurre ulteriormente il tasso sui depositi e portarlo sotto al 2%. Oggi la Trichet non ha voluto dare spiegazioni su questo fronte, però è evidente che questa è una delle possibilità. Poi naturalmente la banca ha altre possibilità. Una possibilità di cui si è discusso internamente è quella di introdurre delle quote sui depositi che la banca riceve da parte di istituti di credito commerciali. In altre parole, alcune quote del denaro verrebbero prezzate a un certo tasso di interesse. Certo. E poi superata quella quota ti do meno, se ho ben capito. Esattamente. Sì. Cioè, mi puoi portare un certo numero di milioni o miliardi di euro in deposito ogni sera e ti faccio rendere X, però poi se aumenti la quota rendono sempre di meno, più aumenti questa quota, diciamo. Dopo le informazioni meteo e la pubblicità, Beda, avrei l'ultima domanda per te, che non vuole essere speciosa, nel senso che noi abbiamo sempre chiesto in queste settimane e mesi che la Banca Centrale Europea abbassasse i tassi. A questo punto, avendo compiuto un taglio dell'1,75% in due mesi, anche se non lo ammetterà mai, si è rimangiata tutta la sua linea fino a quella di luglio, quella che il problema era l'inflazione in Europa. Però c'è chi dice, soprattutto riferito all'America, ma anche all'Europa, che adesso attenzione, perché questa crisi finanziaria, questi strumenti finanziari, questa speculazione, questi rischi, prodotti tossici, carta straccia, sono nati proprio in un contesto di tassi eccessivamente bassi, per cui il denaro costava troppo poco. Ecco, vorrei capire se condividi questa obiezione o comunque se invece il percorso delle banche centrali in questo momento non sia obbligato e casomai non sarà da riflettere su quando tornare a rialzare i tassi per non lasciare i tassi troppo bassi, troppo a lungo. minuti, ultima parte di questo primo tema di Focus Economia, ossia il taglio dei tassi di interesse. No, rido perché gli ascoltatori Beda stanno scrivendo ancora sul Sibari International Airport. Va bene, parleremo più avanti. Stiamo cercando anche il presidente della regione Calabria, Agazio Loiero, per capire come mai in maniera bipartisan, quando c'è da spendere soldi, sono tutti d'accordo. Insomma, il rischio che i tassi possano essere troppo bassi. So che sembra quasi voler essere un bastian contrario, ma insomma, nomen omen. Ma la Banca Centrale Europea ha due problemi per quanto riguarda il livello minimo dei tassi di interesse. Il primo problema è quello di evitare la creazione di una nuova bolla. È evidente che la Banca Centrale Europea, ma non soltanto la Banca Centrale Europea, direi che vi è anche negli Stati Uniti un filone che sottolinea come l'espansione monetaria degli ultimi 10 anni abbia contribuito sia alla bolla sui titoli tecnologici, sia alla bolla immobiliare che poi è scoppiata alla fine del 2006, inizio 2007. E su questo aspetto la Banca Centrale vuole fare molta attenzione e vuole evitare di avere una politica monetaria troppo espansiva tale da creare una nuova bolla. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto invece è invece un aspetto un po' più strategico, direi. La banca vuole evitare di ridurre i tassi di interesse in modo troppo aggressivo, fino ad arrivare a un livello dei tassi talmente basso che ridurre nuovamente, ulteriormente il costo del denaro non servirebbe a niente. In altre parole, vuole evitare un po' la sindrome giapponese in un certo senso. Certo. Il Giappone ha ridotto i tassi talmente tanto che ha perso completamente la propria politica monetaria. La politica monetaria gli è sfuggita completamente di mano. Ridurre il costo del denaro allo 0,50% è stato completamente inutile perché non ha avuto un impatto né sui consumi né sugli investimenti delle imprese. E quindi questo secondo aspetto è un aspetto cruciale per la BCE. La BCE deve trovare il giusto equilibrio tra aiutare l'economia con i tassi bassi o relativamente bassi e dall'altro evitare di legarsi le mani e di essere in quello che in inglese chiamano la liquidity trap, in altre parole la trappola della liquidità. Quindi per rispondere alla domanda, il nostro compito a questo punto è di capire qual è il livello minimo dei tassi sotto al quale la BCE non vuole scendere. E sotto il quale questo sarebbe anche inutile scendere, perché come tu dicevi, la trappola della liquidità e la sindrome cinese significa che tu abbassi i tassi ma nulla cambia, a quel punto ti sei giocato anche le ultime cartucce disponibili e nel frattempo rischi di creare delle distorsioni sul mercato, perché non vorremmo che ripartisse quella speculazione sul prezzo degli immobili che fu generata anche da una borsa deludente e da mutui bassissimi, per cui ci fu la corsa al mutuo, la corsa all'immobile, i prezzi in aumento. Grazie a Beda Romano. Voglio dire, giustamente alcuni ascoltatori fanno notare, Beda, che è la prima volta che io critico un taglio, non ho criticato, ma insomma che ero il resto scettico su un taglio dei tassi del BCE, e è la prima volta forse che tu difendi un taglio dei tassi del BCE, ma stanno chiaramente scherzando. Grazie al corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, oggi in collegamento da Bruxelles, Beda Romano. Adesso noi restiamo in tema di pacchetti anticrisi, ma ci occupiamo di quello francese. €26 miliardi, tanto vale il piano oggi illustrato dal presidente francese Nicolas Sarkozy. E lui le misure per l'auto le ha messe, ha messo anche le misure per il meno ambiente, €26 miliardi freschi. Vedo già che alcuni scrivono il paragone con i 6,4 miliardi del governo italiano, ognuno fa il piano che vuole, poi vedremo gli effetti che questi piani otterranno. Allora, non significano, ha detto Sarkozy, chiaro che la Francia ha problemi di bilancio assolutamente inferiori rispetto ai nostri, ha un debito che è un terzo, ha un deficit che può permettersi di aumentare, parliamoci anche molto chiaro, noi siamo quelli messi peggio sul debito. E comunque l'obiettivo è quello di far ripartire l'economia, ma senza abbandonare il risanamento delle finanze pubbliche. La risposta alla crisi sono gli investimenti, ha detto Sarkozy, in particolare misure a sostegno dell'auto, un bonus di 1000 euro per la rottamazione dell'auto e l'acquisto di quelle meno inquinanti, così come un bonus all'edilizia. E poi per combattere la disoccupazione Sarkozy ha annunciato l'esonero di tutti gli oneri sociali per un anno alle aziende con meno di 10 dipendenti che fanno assunzioni, e questo è un tema molto delicato che interessa la piccola industria italiana, cioè qualunque azienda che ha meno di 10 dipendenti e che assumerà un nuovo dipendente per un anno non pagherà i contributi. E poi 200 euro per i francesi meno abbienti, per un totale di 3,8 milioni di persone e 760 milioni di euro. E poi, per consentire alle aziende di investire, lo Stato francese verserà alle aziende 11 miliardi di euro, che non è che siano aiuti di Stato, sono, come in Italia, i pagamenti, i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione, che da noi sono una cifra anche superiore, hanno ritardi inaccettabili in Italia, ma anche in Francia sono in ritardo evidentemente. E comunque, cosa farà lo Stato? Accelererà questi pagamenti che deve alle imprese, che la pubblica amministrazione francese deve alle imprese. Si tratta di 11 miliardi di euro che arriveranno in cassa alle imprese all'inizio del 2009. E poi verranno accelerati anche gli investimenti dei progetti per le infrastrutture, quelli, i progetti già previsti, un altro pacchetto da 4 miliardi di euro per portarli a compimento prima del tempo. La rapidità, il tema su cui ha più insistito oggi Nicolas Sarkozy, oltre alla montata delle misure. La situazione infatti è eccezionale quanto a crisi e di fronte a una crisi fuori dal comune serve una rapidità per misure fuori dal comune. Le circostanze eccezionali invitano a prendere misure eccezionali. Le procedure solite non possono essere applicate quando si tratta di agire rapidamente. Sui criteri del patto di stabilità e sugli aiuti di Stato, le cose cominciano a muoversi, ma occorre andare oltre. Non dobbiamo rimanere immobili sulle regole che abbiamo creato e ci impediscono di agire. Ad una accelerazione degli eventi deve corrispondere un'accelerazione delle procedure. Questo piano sarà attuato integralmente, rapidamente e totalmente. E faremo in modo che non ci sia nessun ripensamento, nessuna marcia indietro rispetto a quanto è stato deciso. Questo piano è coerente con le decisioni prese nell'ambito del G20, è coerente con le linee della Commissione europea, coerente con quanto ha in programma il nuovo presidente degli Stati Uniti, Obama. È coerente con quanto hanno deciso i britannici, gli spagnoli e gli italiani. In occasione del Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre, cercherò di convincere tutti i partner della necessità di agire insieme, in modo coordinato. Ecco quanto abbiamo deciso oggi con il governo e con il primo ministro e che vogliamo raggiungere insieme. Vogliamo affrontare e superare la crisi, non subirla. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? On veut surmonter la crise pour ne pas la subir. Vedo molti commenti sulle misure prese dalla Francia per le imprese, a partire dall'accelerazione sui pagamenti dovuti, 11 miliardi di euro, e poi questo elemento sull'esonero degli oneri sociali per un anno alle aziende che assumono, aziende con meno di 10 dipendenti. La differenza, al di là del metodo, dell'indicazione, sta proprio anche nella quantità, però attenzione, noi abbiamo relativamente le mani legate per quello che riguarda l'andamento del nostro deficit e soprattutto del nostro debito, e quando parleremo poi di questa differenza tra quanto costa a noi rifinanziare il debito sui BTP e quanto costa la Germania, il cosiddetto differenziale tra tra BTP e Bund tedesco, vedremo che il mercato sta già dicendo, in questo periodo così di crisi, meglio comprare obbligazioni tedesche, e se uno vuole comprare obbligazioni italiane devono rendere tanto. International Hub di Sibari, vi piace questa storia? Allora, noi stiamo cercando il presidente della regione Calabria, Agazio Loiero, perché vorremmo capire come mai una regione che ha due aeroporti su tre, uno chiuso, l'altro in rosso, e solo la Lamezia Terme che funziona, si permette il lusso di spendere già 6 milioni di euro per espropriare i terreni su cui realizzare il nuovo aeroporto a Sibari con un grande hub nel Medio Oriente. Vorrei capire cosa ne pensano a Malpensa, dove hanno difficoltà a tenere in piedi Malpensa, adesso forse arriverà la Lufthansa, e vorrei capire a che appartiene questo terreno, perché già 6 milioni di euro i proprietari se li sono beccati. Sospetti no. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la borsa prima e poi l'andamento dei BTP e dei Bund tedeschi, alla luce anche delle dichiarazioni del ministro Tremonti, che ha detto poco fa il debito italiano è assolutamente solido, lo ha detto registrando la puntata odierna di Porta a Porta. la Repubblica garantisce per quel debito, comprate i titoli di Stato italiano che sono la cosa migliore del mondo, BOT e CCT sono la cosa più sicura e più solida, please do buy Italian bonds, per imitare un mitico Rutelli che già altre volte abbiamo sentito, please do visit Italy. Vabbè, dai, la borsa e i mercati di oggi. Meno 1,1% l'S&P MIB, meno 0,80 MIBTEL, Parigi e le altre borse europee più, in alcuni casi migliori, nel senso che Francoforte ha fatto, è chiuso in variata, Parigi meno 0,1, Londra meno 0,3. Hanno frenato nel finale le borse perché l'America ha preso a scendere meno 0,6% sul Dow Jones, meno 0,4% sul Nasdaq. Nessun effetto, taglio dei tassi. Bene, molto bene, Alleanza Assicurazioni più 7,7, Telecom più 3%, Fastweb più 2,70, UbiBanca più 2,5, Espresso più 2,2, Mediaset più 2 come Monte dei Paschi, Finmeccanica più 1,7, Tenaris più 1,6, Lottomatica più 1,4, Bulgari più 1,2, Parmalat più 1%. Sul fronte opposto invece Banco Popolare più 5,6%, Unipol più 4,4%, Autogrill più 4,20% come Unicredito, scusatemi, meno 4,20% come Unicredito, meno 4,2% anche Fondiaria, meno 4% anche Enel, meno 3,5% ST Microelectronics, meno 3,4% A2A e meno 3% Intesa. Quindi il peggior titolo è Banco Popolare, che perde un altro 5,5%. Ne parliamo come sempre con i colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore per commentare appunto l'andamento dei mercati. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera. Beh, Banco Popolare e sul fronte opposto Alleanza. I finanziari, soprattutto i bancari, hanno frenato notevolmente il listino milanese, che come tu hai ricordato, hai segnalato, è andato molto peggio, diciamo così, delle altre borse europee. Sono stati proprio i finanziari e gli energetici a spingere in basso l'S&P MIB. Per quanto riguarda il Banco Popolare, non c'è freno, diciamo, questa discesa del titolo da quando è stato comunicato la rottura dell'accordo tra la controllata Banca Italease e i tedeschi di DZ Bank per creare una partnership nel leasing e nel factoring. E in più oggi è arrivata l'agenzia di rating Fitch, che ha cambiato l'outlook, le prospettive sul rating del Banco Popolare, abbassandolo a negativo da stabile, quindi confermando il momento no dell'istituto, proprio in seguito a questa indicazione, a questo evento negativo arrivato su Banco Italease. Per quanto riguarda Alleanza, diciamo che lo scatto è avvenuto proprio nell'asta finale, perché mentre il titolo nel pomeriggio è arrivato a guadagnare più o meno il 4%, poi nell'asta di chiusura sono arrivati ordini pari, superiori al 10% di quelli che erano passati in tutta la giornata, e hanno fatto scattare il titolo. Bisogna segnalare che nel comparto assicurativo sicuramente Alleanza nell'ultimo mese è stato quello più oggetto di ricoperture, e oggi con un mercato che ha avuto momenti anche di euforia, diciamo così, lo ha confermato. Nell'ultimo mese Alleanza ha guadagnato lo 0,2%, mentre Fondiaria SAI e Unipol sono stati quelli un po' più negativi, penalizzati nell'ultimo mese. Oggi ancora Unipol ha perso il 4,4%, Fondiaria SAI il 4,2%. Enel, allora, Fondiaria è, lo ricordavi tu, è anche Unipol, Autogrill meno 4,20, Unicredito meno 4,2 a 1,62 euro, Intesa meno 3% a 2,23 euro, Enel meno 4 e anche A2A meno 3,4%. Un po' pesanti, diciamo, gli energetici. Ho capito il petrolio, insomma, l'Eni non è andata così male ed è quel titolo più sensibile al petrolio, anzi ha guadagnato mezzo punto percentuale. Certo, abbiamo visto nelle ultime sedute come gli energetici italiani, quando si parlava di blocco delle tariffe e del decreto salva imprese, fossero molto penalizzati in quella fase proprio legati a questo provvedimento del governo. Di fatto invece Enel attraversa comunque, al di là di questo provvedimento, un momento di difficoltà. Oggi è stata penalizzata anche delle indiscrezioni, peraltro smentite, sull'ipotesi che Enel fosse interessata ad acquisire il 25% della spagnola Endesa, che è ancora in mano agli altri spagnoli di Acciona, ipotesi che è stata smentita, ma che non è stata sufficiente a sostenere il titolo. Va segnalato invece come aspetto, diciamo così, positivo, che domani verrà pubblicato il bando per la vendita della quota di maggioranza di Enel Rete Gas, e che le manifestazioni di interesse dovranno arrivare entro la fine dell'anno a Enel. Allora, Telecom Italia, visto che poi ne parleremo nella seconda parte del programma, come è andato il titolo? Mi sembra bene, anzi sicuramente bene, più 3% sopra l'euro per azione. Poi parleremo dei licenziamenti invece nella seconda mezz'ora. Un po' di rimbalzo per Telecom Italia, non stiamo a raccontare il momento difficile che vive il titolo dopo il piano industriale di ieri. Dopo il piano industriale di ieri i malumori si erano un po' diffusi, oggi c'è stata un certo ritorno, una certa ricopertura sul titolo con oltre 90 milioni di pezzi trattati, e gli analisti si dividono tra un po' chi è più critico, è il caso ad esempio di JP Morgan, chi è più ottimista come BS Morgan Stanley. Va detto che probabilmente con la presentazione del piano industriale 2009-2011 questa settimana in Europa, la prossima settimana negli Stati Uniti, è molto probabile che il titolo sia fortemente oscillante, quindi sia fortemente sia nervoso. Poi rimane anche l'attesa per il consiglio di amministrazione di Telco, che dovrebbe avvenire domani, e che dovrebbe trattare di un rifinanziamento di Telco. Ricordiamo, Telco è la holding, la scatola che controlla Telecom, e di cui fanno parte. Andiamo a chiudere perché abbiamo anche un altro tema. L'importanza è domani sul consiglio di amministrazione, ma chiaro che il rimbalzo c'è stato. Poi il tema che invece sottolineano alcuni ascoltatori degli esuberi, purtroppo oltre 9.000, lo affronteremo nella seconda ora. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Metto un po' di fretta perché voglio arrivare con Moria Longo, sempre del Sole 24 Ore. Buonasera Moria. Moria non è ancora in collegamento, allora ho messo fretta per nulla al nostro collega, al tema di quanto rendono i nostri BTP, perché è aumentata la differenza tra BTP e Bund tedesco. Eccoti Moria, buonasera. Allora, i nostri BTP decennali rendono il 4,3%, più di noi rendono solo quelli greci, il 4,86%, la Gran Bretagna rende il 3,7%, in Spagna il 3,87%, in Francia il 3,7%, in America il 2,7%, in Germania il 3%. Più un'obbligazione rende, meno affidabile è quel paese. Ora, o perlomeno così è percepito dal mercato. Così è percepito dal mercato, non nella realtà dei fatti, ma nella percezione di chi deve prestare i soldi. Questa è l'obbligazione, presti i soldi a uno Stato. Anche oggi è aumentato il differenziale tra quanto deve offrire il nostro Stato per farsi rifinanziare il debito, e il prossimo anno scadranno 220 miliardi per l'Italia di titoli di obbligazioni che vanno rifinanziate, che il nostro debito va di anno in anno rifinanziato, no? Certo. E quanto invece deve pagare lo Stato tedesco? Perché? I motivi sono tanti e sono tutti messi insieme. Il primo motivo è che in una situazione di crisi finanziaria, di panico anche come quella che stiamo vivendo ormai da molti mesi, gli investitori tendono sempre a comprare ciò che ritengono più sicuro, e come dicevi prima, in Europa i titoli ritenuti, a torto ragione, più sicuri sono i Bund tedeschi, cioè i titoli di Stato tedeschi. Quindi gli investitori comprano più titoli di Stato tedeschi e comprano meno BTP italiani. Questo fa abbassare molto i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi in relazione rispetto ai rendimenti dei titoli di Stato italiani. È per questo che appunto i titoli di Stato italiani rendono molto di più, un punto, quasi un punto e mezzo in più di quelli tedeschi. Infatti il motivo per cui questa è una cosa generale, si capisce il fatto che non è solo l'Italia penalizzata, la Grecia, dicevi tu prima, la Francia, tutti i paesi rispetto alla Germania sono costretti a offrire rendimenti sempre più alti, e questo è il primo motivo. Ecco, Moria, il secondo motivo in realtà lo affrontiamo dopo il GR, perché vorrei anche chiederti qual è la tendenza. Giustamente oggi il ministro Tremonti ha detto: guardate che il nostro debito è assolutamente solido, comprate i BOT e i CCT, ha detto Tremonti, sono i migliori al mondo, al di là diciamo del giudizio del ministro. In effetti è difficile dire che in questo momento l'Italia sia più a rischio di un anno fa, e allora forse il meccanismo che sta scattando è un altro. ...18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Moria Longo, sempre ragionando su quello che è la differenza tra quanto costa al nostro Stato rifinanziare il suo debito, ossia il BTP, e quanto costa alla Germania, questa differenza sta aumentando e non è una bella notizia. Abbiamo già detto, perché vuol dire che noi paghiamo di più, dobbiamo aumentare i rendimenti dei nostri BTP, e ed è arrivata all'1,36% la differenza. Abbiamo detto che non è che sia peggiorata la situazione economica dell'Italia, anzi il deficit rispetto agli obiettivi di Maastricht, è che diciamo in questo momento il mercato vuole prodotti ipersicuri, se ho ben capito, Moria. Esattamente, sì, il mercato tradizionalmente preferisce i titoli di Stato tedeschi rispetto a quelli dell'Italia o anche della Grecia, perché l'Italia notoriamente ha un debito pubblico molto molto elevato, e quindi in un momento di crisi questa preferenza aumenta, e quindi comprano tutti i bund tedeschi. A questo punto paradossalmente l'Italia è quella che in questa crisi ha annunciato il minore intervento pubblico sull'economia. Tutti i paesi, a partire dagli Stati Uniti ma anche in Europa, hanno annunciato forti interventi, quindi forte spesa degli stati, quindi forte indebitamento attivo degli stati, ma paradossalmente quella che viene più penalizzata è proprio l'Italia, che invece ne ha annunciato meno. E questo è perché l'Italia purtroppo ha sempre avuto il maggior debito pubblico, attualmente è intorno al 103-105% del prodotto interno lordo, e questo pesa in momenti di difficoltà, ovviamente chi è più debole in partenza soffre. Insomma, è come se, avendo avuto una brutta media in pagella negli anni precedenti, si fosse noi obbligati a essere i primi della classe. Ecco perché il ministro Tremonti continua a dire: attenzione, non possiamo toccare il deficit, ma non tanto per l'Europa, ma per quello che sarebbe poi la reazione dei mercati. Mentre altri paesi che hanno fatto come un po' a scuola bene nei trimestri precedenti possono anche permettersi di prendere voti più bassi, tradotto di aumentare il deficit più di quanto promesso, di sforarlo rispetto al parametro di Maastricht del 3%. Quale potrebbe essere l'evoluzione di questi rendimenti, Moria, per concludere? Ovviamente la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno. Posso dire che il mercato scommette ancora su allargamento di questo differenziale, quindi su una ulteriore penalizzazione dei titoli di Stato italiani. Addirittura io, parlando con diversi fondi o hedge fund o comunque investitori istituzionali, ho saputo che molti, se non molti, comunque in tanti, qualcuno punta ancora sull'allargamento di questo spread, di questo differenziale, quindi come strategia di investimento tende a comprare titoli tedeschi e a vendere quelli italiani. Quindi purtroppo, finché le turbulenze resteranno, è possibile che questo differenziale tenda ancora ad aumentare o comunque a mantenersi elevato. Prima di vederlo ridiscendere probabilmente bisognerà aspettare un momento di calma maggiore sui mercati, quindi la fine del panico, e quindi anzi a quel punto magari i BTP che rendono di più diventeranno appetibili. È una domanda che ci pongono giustamente gli ascoltatori, ma il fatto che oggi la Banca Centrale Europea abbia tagliato i tassi di uno 0,75% non dovrebbe aiutare anche alla fine quanto noi paghiamo di interessi sul debito? Noi paghiamo 70 miliardi di euro ogni anno solo di interessi sul debito che abbiamo, che essendo il 104% del PIL vale più di 1.600 miliardi di euro. Certamente questo aiuta, ma difatti quando noi parliamo di differenziale rispetto ai titoli di Stato tedeschi parliamo appunto di una differenza di rendimento. Non in termini assoluti. Appunto, in termini assoluti, i rendimenti dei titoli di Stato italiani, tedeschi, francesi e americani sono scesi. Si tenga conto, per esempio, proprio oggi i titoli americani hanno segnato il minimo storico di rendimento degli ultimi 50 anni, e anche in Europa siamo molto bassi. Quindi in termini assoluti i rendimenti sono storicamente bassi. In termini relativi, cioè di differenza tra l'Italia e la Germania, noi paghiamo uno scotto, noi paghiamo di più. E quindi in termini di competizione, diciamo, noi siamo svantaggiati, come se corressimo con i pesi alle caviglie. Sì, o quello che in inglese si chiama fly to quality, ossia quando tutti hanno paura, non vogliono rischi, si va a cercare il prodotto iper garantito, e più garantito dello Stato tedesco in Europa non ce n'è. A giudicare dei rendimenti, anche la Francia e la Gran Bretagna infatti devono offrire un po' di più, chi offre meno è solo l'America, perché insomma anche lì il fallimento degli Stati Uniti d'America fa parte di un film di fantascienza, non certo di un rischio possibile. Grazie Mario Longo del Sole 24 Ore. Dunque, la regione Calabria, questa storia che sta entusiasmando gli ascoltatori dell'aeroporto di Sibari, 6 milioni di euro stanziati dalla regione per espropriare i terreni su cui realizzare un nuovo aeroporto a Sibari, altri 28 milioni di fondi europei da utilizzare per fare un hub internazionale, un aeroporto di smistamento internazionale verso il Medio Oriente. Ogni tanto maggioranza e opposizione sono favorevoli, quando c'è da spendere troviamo spesso accordi bipartisan. La cosa che ci ha lasciato perplessi è che la Regione Calabria ha già 3 aeroporti, solo uno riesce a stare in attivo, quello di Lamezia Terme, che ha fatto 300.000 euro di utili nel 2007, gli altri due, quello di Crotone ha proprio sospeso le attività perché perdeva così tanto. E riceveva ogni anno 3 milioni di euro di incentivi pubblici. Quello di Reggio Calabria ha perso l'anno scorso 4 milioni di euro. Nel frattempo il conto della sanità calabrese ha chiuso il 2007 con 300 milioni di euro di deficit, e quest'anno a settembre aveva già toccato i 290 milioni di euro. Siamo chiesti, senza polemica, se fosse veramente necessario il quarto aeroporto, visto che due sono in rosso e uno nemmeno riesce a essere gestito in Calabria, per fare un hub internazionale nel Medio Oriente, visto che poi già Malpensa ha i suoi problemi. Abbiamo cercato il presidente Agazzi ieri, non è che si sia rifiutato, aveva altri impegni, poi adesso non riusciamo più a raggiungere il portavoce, quindi prendiamo atto che ci sono altri impegni, ma l'invito resta valido, e quindi quando vorrà la Regione Calabria spiegarci perché fosse una priorità spendere 6 milioni di euro più altri 28 per l'aeroporto international di Sibari, siamo a disposizione. Allora, ultimo tema, il piano Telecom Italia. Intanto do un aggiornamento a chi ce lo chiede. Telecom ha chiuso bene in borsa, anche se il titolo è sicuramente in sofferenza, sopra l'euro per azione, 1,05 euro, più 3,2%, più 3,02%, scusate. Molto bene, Alleanza Assicurazioni, più 7,7%. Fast più 2,7%, male di nuovo il Banco Popolare che perde il 5,6%, il peggior titolo, IP meno 8,6%, Italcementi sul risparmio, Fortis il migliore, Telefonica più 9,6% e anche BMW più 9%. Professor Luigi Prosperetti, docente di economia politica e soprattutto editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, lei ha scritto oggi su Sole 24 Ore un pezzo proprio sul piano triennale di Telecom Italia che si chiama La difesa e la ramazza. Adesso arriviamo a capire perché. Il sottotitolo era salvataggi e rischio protezionismo, ma insomma il piano che Telecom ha presentato ieri, domani ci sarà il CDA, prevede che ai 5.000 esuberi tagli già annunciati se ne aggiungono altri 4.000, per cui alla fine saranno 9.000, ossia 14 dipendenti su 100, verranno venduti asset, ossia controlli, beni per 3 miliardi di euro, beni e servizi per 3 miliardi di euro, l'indebitamento verrà ridotto da 35 a 29 miliardi in 3 anni, l'incremento dei ricavi dovrebbe essere del 2% all'anno, è escluso lo scorporo della rete e invece vengono rafforzate le attività in Brasile, Team Brasil. Così come potrebbe essere esercitata l'opzione per acquisire la Telecom Argentina. tutte le decisioni sul dividendo verranno rimandate al prossimo 27 febbraio. Questo nel giorno in cui il colosso americano della telefonia AT&T ha annunciato la bellezza di 12.000 tagli, di 12.000 esuberi, 12.000 posti di lavoro in meno. Cos'è la difesa e cos'è la ramazza? Ma guardi, credo che il modo migliore per inquadrare il piano di Telecom sia di parlare un attimo di quello che stanno facendo gli operatori storici negli altri paesi. La sostanza della questione è che sono tutti in difesa, giocano in difesa perché la concorrenza e la regolazione stanno riducendo da anni i margini che questi possono trarre sia dal fisso che dal mobile. Lei citava prima la riduzione occupazionale, è vero, è molto severa. Qualche settimana fa British Telecom ha annunciato una riduzione del 10%, 10.000 dipendenti su 100.000 circa, e altri forse con meno pubblicità, ma stanno continuando a diminuire. Perché? Ma perché è un'industria matura. I margini si assottigliano e in questi casi bisogna tagliare assolutamente i costi. La tecnologia consente di tagliare i costi nei servizi di telecomunicazione, e questo è quello che sta succedendo. Questa sì, è quello che ho chiamato la ramazza. Ecco, una nota che arriva dagli ascoltatori anche in questo caso. È verissimo che 9.000 dipendenti in meno di Telecom Italia fanno meno notizia di 3.000 dipendenti in meno in Alitalia. Questo è indubbio, cioè non ci sono, non ci sono modi diversi per dirlo che non così, perché voglio dire, nessuno vuole che si faccia la stessa campagna con Alitalia, però è oggettivamente un anno che ci occupiamo di steward, hostess e piloti. Poi 9.000 persone perdono posto di lavoro, o qua siamo come nella fattoria di Orwell, professor Prosperetti, per cui tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri, o se no non si capisce perché. Ma guardi, questo con tutto l'affetto che ho per la stampa e l'informazione penso che sia anche la... È colpa nostra. No, non è solo è colpa nostra. Però altri esempi, anche le banche hanno ridotto l'occupazione in maniera... Sì, lì c'è un fondo che garantisce qualcosa di certo, più, però, è vero, però anche perché i dipendenti all'Italia hanno 7 anni di cassa integrazione, esatto. Vabbè. Ma poi non credo che quelli di Telecom verranno No. Stiamo comunque parlando di persone che lavorano in grandi aziende che hanno delle reti di protezione. Bisognerebbe dare la misura del come in alcuni casi, ahimè, questo sia assolutamente inevitabile. Ma l'Italia è l'Italia. Vabbè, sì. Andiamo avanti su Telecom Italia invece. Che ne sarà del piano? Dunque, tutte le compagnie telefoniche in questo momento hanno di fronte uno snodo importantissimo. Fare la banda larga, cioè portare investimenti in fibra, creare con la fibra la nuova generazione di network. Fondamentali non tanto per giocare meglio con i videogiochi o scaricare meglio i film, fondamentali perché alle aziende, per la competitività di un paese, è fondamentale avere dati che viaggiano a quella velocità. Questo renderebbe più facile qualunque cosa, oneri burocratici, accordi commerciali, insomma è un elemento competitivo per un paese. Chi ce li ha i soldi in questo momento se Telecom deve addirittura licenziare 9.000 persone? Ma guardi, anche sulla banda larga bisogna nutrire aspettative realistiche. La banda larga serve di più in certe zone e serve di meno in certe zone. Questo non vuol dire che bisogna tornare al doppino di rame, ma certamente le altissime velocità a cui lei si riferiva prima servono alle grandi aziende, ai business centers, non servono in campagna. Quindi se cominciamo a tagliare queste idee che sono molto generiche ma poi costano 10-15 miliardi di euro che nessuno ha da spendere evidentemente. Vediamo come la banda larga, come tutte le innovazioni, è una scelta di business che sarà introdotta là dove la domanda dei consumatori o dei consumatori potenziali lo consente e ne indica la redditività. Questo credo che sia il modo in cui sono state introdotte tutte le innovazioni nelle telecomunicazioni, ma non solo. Prefigurare grandi disegni che poi nessuno ha i soldi per attuare è un po' un modo per riportare le telecomunicazioni, come ho detto, in comando politico, un termine tecnico del diritto amministrativo che indica un settore in cui le decisioni sono ultimamente decise appunto dai politici. Allora, a parte che mi fa impazzire un ascoltatore che dice: ma insomma i 9.000 esuberi di Telecom saranno quasi tutti scivoli per il pensionamento. Ma che vuol dire? Perdono il posto di lavoro come quelli di Alitalia? Io non capisco, veramente ogni tanto mi arrendo. Ma andiamo avanti sul ragionamento sulla nuova Telecom Italia. Fermo restando che a Franco Bernabé si possono dare tante responsabilità, ma l'hanno gestita anche i soci di Marco Tronchetti Provera prima ancora Roberto Colaninno, quindi non è che adesso questo è il piano perché Bernabé ha distrutto la Telecom. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Ma in questo senso lei oggi scrive su Sole 24 Ore: attenzione, con questo piano Telecom Italia sostanzialmente ritorna dentro i confini nazionali, sì, resterà un po' in Brasile, un po' in Argentina. E perché questo è un rischio protezionismo? No, non è un rischio, io l'ho chiamato un arroccamento. Un arroccamento. Nel senso che direi che l'internazionalizzazione delle telecomunicazioni italiane è partita male ancora dai tempi della SIP e della STET. Si è il fatto famoso nocciolo morbido, ma, sì, nocciolino. Ma ancora prima di quello si sono comprate piccole quote di operatori in altri paesi o si sono creati dei piccoli operatori. E questa è una strategia sbagliata, perché soprattutto se uno di soldi ne ha pochi deve concentrarli laddove ha speranze di crescita. Alcune scommesse sono andate bene, il Brasile è andato molto bene, sì. Molte altre, la Francia, la Germania, altri paesi, sono stati la Grecia, sono stati tutte dei soldi buttati via sostanzialmente. Quindi adesso mi sembra ragionevole concentrare i pochi soldi che si hanno laddove ci sono ottime prospettive di crescita, il Brasile, e dove c'è da riprendere il controllo di una società in cui si è investito, che è l'Argentina. Ma insomma, sostanzialmente sì, Telecom però si concentra fortemente sull'Italia. Certo, professor Prospetti, che senza voler tornare su una vicenda di cui siamo occupati per anni, quella che fu definita la madre di tutte le privatizzazioni, Telecom Italia, è stata la peggiore di tutte le privatizzazioni. E ripeto, ognuno si prende le sue responsabilità, ma insomma, noi avevamo 10 anni fa, vado a memoria, 8-9 anni fa, la prima compagnia telefonica in Europa, mobile, TIM, la terza, che era Omniter. Ci ritroviamo con gli spagnoli dentro Telecom, con una quota di rilevanza, non contiamo più nella telefonia, forse. Cioè, a distanza di quasi 10 anni, mi aiuti lei con la memoria, ma dovrebbero essere 10 anni, si può dire che è un modello da non seguire quanto a privatizzazioni, questo lo possiamo dire? Sì, perché vede, è stata fatta una scelta molto provinciale, ricordiamo. Strano. Che sono stati scartati, e scartati anche in malo modo, due disegni che stavano prendendo corpo proprio in quei mesi. Uno era un'integrazione con Deutsche Telekom e l'altra era un'integrazione con AT&T. Fare la storia con dei se e dei ma è sempre difficile, ma certamente la scelta è stata fatta di vendere Telecom Italia a chi non aveva sostanzialmente i soldi per comprarla. E questa è una costante che c'è stata nella prima vendita, la privatizzazione, poi c'è stata anche nei passaggi di proprietà successivi. Telecom è sempre stata comprata da chi non aveva in fondo i soldi. Comprata a debito, si dice in gergo. Certo. E questo poi ha portato anche a una necessità di portare in alto gli utili di Telecom Italia, una storia lunghissima. Alcuni di voi citano i famosi capitani coraggiosi. Vabbè, chiudiamola qua oggi che è meglio. Grazie Luigi Prosperetti, docente di economia politica alla Statale di Milano. Da Sebastiano Brisoni l'auguro di una buona serata a voi in ascolto. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi, un'altra puntata di Focus Economia.